In the moonlight, your soft eyes hold me gently through the night. I soldi mi parlano, dicono che amano e me soltanto, che vogliono stare con me e me soltanto. Io ho l'ossessione per altro, adesso qualcuno vorrebbe essere me, adesso che non vester mess, io voglio essere acclamato, perché è quello che mi merito per quello che ho mangiato. Io merito di stare in alto, merito elitio, merito tutt'altro. Non mangio mai sano perché ho una vita sola e non sputo sul piatto, non fa parte della mia persona. Se faccio qualcosa voglio essere pagato, non ho mai venduto il fumo, mi hanno detto che è sbagliato. Se ripensa al mio passato mi ricordo tormentato, ma se guarda il mio futuro vedo un califfato. Non sono mai stato ingrato, la vita è un paradosso, prendo il dosso a 2000, vedo tutto mosso, sono storto, vedo in slow motion, ti mando le emoticon del diavolo, perché l'ho sempre apprezzato, me lo sono tatuato. Dopo ci ho mangiato a cena, per sparlar di mezza scena, che si mette a 90 e ti dà la schiena. Sono bambolotti, giuro, mi fanno pena, sono bambolotti. I soldi mi parlano, dicono che amano e me soltanto, che vogliono stare con me e me soltanto. Io ho l'ossessione per altro, adesso qualcuno vorrebbe essere me, adesso che non vester mess, io voglio essere acclamato, perché è quello che mi merito per quello che ho mangiato. Io merito di stare in alto, merito elitio, merito tutt'altro. Non mangio mai sano perché ho una vita sola e non sputo sul piatto, non fa parte della mia persona. Mi faccio le brutte perché le belle se le fan tutti. Sboccio sul balcone, vedo storto, gioco sporco. Piuttosto che perdere, tu te lo fai mettere. Mezzo uomo, mezza checca, mezza scena, me la mangio, mezza scema, io la spacco, mezzogiorno son già stanco. Sputo fatti, ma è reale, sputo in bocca per sentirmi un gangster. Tra le sue tette, segnone 7, chiamami CR17. Non sono come gli altri, io non finirò in manette, no. In manette no, huh. I soldi mi parlano, dicono che amano e me soltanto, che vogliono stare con me e me soltanto. Io ho l'ossessione per altro, adesso qualcuno vorrebbe essere me, adesso che non vester mess, io voglio essere acclamato, perché è quello che mi merito per quello che ho mangiato. Io merito di stare in alto, merito elitio, merito tutt'altro. Non mangio mai sano perché ho una vita sola e non sputo sul piatto, non fa parte della mia persona.